Buonasera e ben ritrovati dopo qualche settimana che mancavamo dalla diretta. Ben ritrovati da parte di Mighty FM, qui dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1. Chi vi parla come sempre Claudia Mighty Mau e siamo qui per una puntata che è un vero tuffo nel passato in occasione del ritorno. Non so se ci hanno mai suonato in realtà, cosa sto dicendo? Dell'arrivo a Bologna domenica 24 dei Lemonheads presso il Locomotive Club di Via Serlio, abbiamo deciso di fare questa puntata che è appunto un tuffo nel passato, in tutta quella musica dell'indie rock, quando l'indie rock è diventato un po' più mainstream, ma che soprattutto corrisponde anagraficamente ai nostri 20 anni e qualcosa, quindi età d'oro musicale, età d'oro della vita. E come abbiamo messo come titolo la trasmissione, il pretesto è Versions 2, ovvero il disco appena uscito l'8 febbraio per la Fire Recordings, a cui sono passati i Lemonheads dopo tanti anni con la Atlantic Records. E partiamo come sempre con il pezzo di apertura di questo disco, che è Can't Forget, e l'abbiamo detto, sono tutte cover, e questa era una cover di un pezzo degli Io La Tengo. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me, maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time. Can't Forget, tratto da Fake Book del 1990. Per una band che, vabbè, praticamente è il progetto della vita di Ivan Dando, bellone appunto della scena musicale alternativa, piacione, capello lungo, voce suadente, che appunto mi sono resa conto che anche tante canzoni che avevo conosciuto come loro erano delle cover, e anche nei primi dischi ce n'è sempre qualcuna. E in un'intervista appunto recente di fine gennaio di quest'anno ha detto una cosa del genere: il mondo non ha bisogno di nuovi pezzi dei Lemonheads, noi rifacciamo le cover. Penso che stiamo ascoltando I Fucked Up, già finito perché i pezzi dei primi dischi durano più o meno un minuto e mezzo, due. Era I Fucked Up, che era contenuto nel primo EP della band, Laughing All The Way To The Cleaners del 1986, e poi contenuto anche nel debutto discografico del 1987, ovvero Hate Your Friends, qui stiamo ascoltando questo mix. Second Chance. E poi subito anche nel primo disco una cover, insomma, abbastanza autorevole, che potrete riconoscere, credo. somehow different. Now you're looking somehow different. Been a long time since I felt your touch, pulling me closer and I can't fight you. Now you're doing something different. Now you're doing something different. Say you wanna give it another go. That's something that you have to know. There's no such thing as a second chance. There's no such thing as another try. There's no such thing as starting all over. All you ever did was make me cry. Ovvero Amazing Grace, pezzo sacro per gli Stati Uniti. Questo gruppo che, come si può sentire all'inizio, era molto molto punk, la voce di Ivan assolutamente irriconoscibile, non si sente assolutamente quella che noi abbiamo poi imparato a conoscere. Una band nata a Boston nell'86, appunto, formata da Ivan Dando, Ben Daly e Jesse Perez, che però non ci sono rimasti tantissimo nella band, e che hanno proseguito tra l'altro delle carriere molto di successo anche nel cinema, nella TV, nella pubblicità. E questo è l'ultimo pezzo che abbiamo scelto, tratto da Hate Your Friends, Don't Tell Yourself It's Okay. Gli altri due membri dei Lemonheads hanno partecipato ai primi tre album, e poi, dicevo, Jesse Perez, carriera come regista anche di serie famose per la TV, da Girls on Earth Jackie, da Orange is the New Black e Glow. Quelli erano tempi in cui, a parte le canzoni molto molto brevi, si era molto prolifici, cioè la media era appunto un disco all'anno. E infatti nel 1988 arriva il secondo disco dal titolo Creator. Ecco, sembrava un inizio da canzoncina, invece viene sempre fuori poi il punk hardcore. Ivan Dando, 4 marzo 1967, e hanno suonato, ho iniziato a suonare da teenagers, incontrandosi a scuola, alla Commonwealth School di Boston. Questo invece è Clang Bang Clang. E la band originariamente si chiamava The Whelps, e poi invece è venuta questa ispirazione da questo dolciume che appunto esiste, i Lemonheads, esiste anche tanti altri frutti. Perché l'ispirazione? Perché Dando ha detto: è dolce dentro però è amaro fuori. E la figura proprio del divandando, è proprio il classico drop out. Dopo l'high school inizia lo Skidmore College, ma non riesce a mantenere una media sufficiente e la lascia allo studio per fare musicista. Primo contratto con la Tang Records di Boston. E questo invece è il terzo pezzo che abbiamo scelto da Creator, 1988, Two Weeks in Another Town. Climbing out to the attic. Smell the dust and the sunshine again. You just said a mad boy. You can't take it with you. You know. E con la Tang pubblicano il primo EP e i primi tre album. Ma che anni erano quelli? Poco prima, sempre nello stesso stato. Però a Amherst nascono nell'84 i Dinosaur Jr. È un po' per dare quel contesto storico musicale, sono stati veramente degli anni pazzeschi. Anche se questa bellissima The Wagon di Green Mind è il disco del 91, ma insomma siamo lì, stiamo cercando sempre di seguire un po' una traccia cronologica. Jay Mathis, Lou Barlow e Murph, e ci entrano ancora di più i Dinosaur Jr., perché per un breve periodo nella seconda metà degli anni 90 Murph ha fatto parte dei Lemonheads. Allora, si sa come io sia non nostalgica, però anzi le cose del passato le sento come se fosse ora. E quindi questi giorni è stato veramente un viaggio riascoltando dei dischi, dei gruppi, proprio dei miei primissimi 20 anni. Avendo anche la fortuna di essere costantemente nutrita, avendo scoperto, grazie alla mia amica Simona, lo Slego e il Velvet di Rimini, chissà sa. E questo Green Mind era già il quarto disco per i Dinosaur Jr., che sono stati molto attivi, molto prolifici, soprattutto dal vivo, pur non facendo più dischi tanto frequentemente. L'ultimo è del 2016, ma l'abbiamo visto una scatafascia di volte, partendo da forse la prima volta a Londra nel 94. There's a place I anche i Lemonheads li ho visti, secondo me, un paio di volte, cioè le volte che nei primi anni 90, 94 e 97 sono stati a Reading Festival, io ci andavo praticamente ogni anno, anzi no, ci sono andata ogni anno negli anni 90, forse dal 92. Perché Might FM è autobiografico, è autoreferenziale. Ma sentite adesso che chicca che arriva, non traduco una parola. In all the reviews I read of the Lemonheads records, it's all said they sound like early Husker Du, early Replacement. Isn't that annoying you? Oh, we're all in favor of it. In fact, we slavishly imitated the sound of those bands because we're not interested in being original at all. We just want to be as derivative as possible. Okay, you're on tour now with Bullet La Volta. Are you trying to imitate them as well? Yes, in fact, I once played with Bullet La Volta. I used to play guitar for that band in order to learn all their licks, in order so that I could copy as much of their style to bring to our band and therefore get as many of their original ideas because we have none of our own. And their originals idea have come out on a new album of the Lemonheads now? Oh, we just stitched together whatever we could find, some remakes and some covers, and we just did some very clever editing to make it sound like we're a real project, a real band, but it's a complete fraud. Let me just tell your listening audience. Well, you're going to do a song from that new album, isn't that right? Yes, this is called Mallow Cup, and it's named after a well-known American candy because we could not think of a song title ourselves. Okay, go ahead then. E inizia davvero Mallow Cup, però non la versione dal vivo fatta in quella stazione radiofonica olandese nel 1989, ma la versione sul disco, appunto l'89 è già l'anno del terzo disco, Lick. Non ho voluto rovinare l'audio originale, però in soldoni c'è questa giornalista molto seria che dice: siete stati paragonati a Husker Du, ai Replacements. E lui dice: sì, noi vogliamo essere più derivativi possibili, che poi non abbiamo nessuna idea nostra originale, per cui copiamo dagli altri. E infatti lei nomina i Bullet La Volta, dice: sì, ci ho suonato, infatti io suonavo nel gruppo, ma perché imparavo tutti i trucchetti nel suonare la chitarra, perché noi proprio di nostro non abbiamo proprio niente. E dice: ma allora queste cose che hai imparato le metterai in atto nel prossimo disco? I Lemonheads? Fa: i Lemonheads? Sì, noi facciamo in modo di mischiare pezzi eccetera, copiando di qua e di là, facendo credere che sia un prodotto originale, che il nostro sia un progetto serio, ma è una frode, una truffa totale, pubblico all'ascolto. E alla fine, annunciando il pezzo, dice Mallow Cup, che è anche questo il nome di un dolce, sono delle coppette dolci a vari gusti, cioccolato, caramello eccetera, perché dice: abbiamo preso il nome di questo prodotto perché non eravamo neanche capaci di pensare un titolo. E appunto da Leak stiamo ascoltando una tripletta, iniziata con Mallow Cup e sta continuando con Glad I Don't Know. Infatti praticamente i pezzi che più l'hanno fatti conoscere e che poi anche successivamente hanno garantito il breakthrough, la svolta, sono cover. E infatti nell'89 in Leak c'era questo rifacimento di Luca di Susan Vega. Maybe it's because I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. They all did it until you cry. After that, you don't ask why. Don't ask why. Just don't argue anymore. Insomma, i Lemonheads diventano molto popolari nei primi anni della loro esistenza nel network delle radio dei college. e questo gli procura un contratto appunto con una major, con l'Atlantic, per il disco successivo del 90. Ma adesso ci fermiamo un attimo, perché in realtà anche il titolo di questa trasmissione, il tema, è un po' una truffa, una frode, un po' una bugia. Perché, volendo fare spazio a tutta la bellissima musica dei Lemonheads, ho pensato: sì, ascoltiamo i pezzi di Versions, ma ascoltiamo anche i pezzi del progetto che lo ha preceduto, appunto Versions 2, è il primo Versions, giusto giusto 10 anni fa. Per anticipare un po' la cronologia della storia dei Lemonheads, per chi non lo sa, dopo il 96 arriva un album nel 2006, e poi nel 2009 questo primo album di cover, da cui stiamo ascoltando questa Dirty Robot di Erling & Cameron, di cui ho questo CD e anche un altro, e in uno stile completamente diverso dall'alt rock, punk, indie, country, alt country dei Lemonheads. Ah, si vede che a Ivan questa canzone piaceva molto, ma la particolarità di questo pezzo è che la voce è quella di Kate Moss. E quindi ci ascoltiamo un po' di canzoni di Versions e un po' di canzoni di Versions 2 alternate. Per questo primo album di cover, che conteneva veramente nomi e generi piuttosto disparati, da Gram Parsons, grande amore di Vandando, ai Wire, a appunto Erling & Cameron, una cosa veramente lontana si penserebbe, questo duo di musica elettronica olandese. E questo pezzo era tratto da We Are ANC originariamente. Ma eravamo appunto arrivati al 90, avevamo annunciato il primo album per la major, l'Atlantic, era Lovey, e ci ascoltiamo due pezzi, Stove e Left for Dead. Un esordio su major che appunto mischiava punk rock, musica country e heavy metal. Wikipedia ci dice: Lovey è stato pubblicato un anno prima dell'esplosione commerciale del grunge, e quindi insomma ha fatto un po' cilecca, non ha prodotto né singoli, cioè non è mai arrivato in classifica, né nessun pezzo di questo disco ha ottenuto insomma una programmazione radiofonica rilevante. Oh, dicevo, uno di quei pezzi che ho conosciuto come pezzi di Lemonheads in realtà erano a loro volta già delle cover, con questa Brass Buttons contenuta sempre in Lovey. E appunto, studiando, ho scoperto che il pezzo originariamente era di Gram Parsons, quindi coverato in Lovey, coverato in Versions. Uno dei artisti cosiddetti seminali di cui io non sapevo nulla. E anche lui parte del 27 Club, quanto è morto per un'overdose di roba varia a Joshua Tree nel 73. E questo pezzo, Brass Buttons, era contenuto nell'album uscito postumo ovvero Grievous Angel nel 74, in realtà doveva essere a firma di Gram Parsons e della sua sodale musicale ovvero Emily Harris, ma la moglie di Parsons ha tolto il nome dagli autori del disco, ha cambiato la foto, insomma ha cambiato un po' di cose. All the time. Her words still dance inside my head. Niente paura, siamo passati alla versione originale. Her comb still lies sensibilmente più lenta. And the sun comes up without her. It just doesn't know she's gone. But I remember everything she said. Brass buttons, green silks, and silver shoes. Warm evenings, pale mornings, bottles. E così finisce la versione originale Brass Buttons di Gram Parsons. E quelli erano anche gli anni. E mi sono veramente commossa riascoltando questo disco. Gli anni dei Buffalo Tom. Anche loro da Boston. E anzi, nati proprio all'Università del Massachusetts a Amherst, la città dei Dinosaur Jr. Gli stessi anni, nati nell'87, primo disco omonimo nell'88. E per ragioni assolutamente sentimentali abbiamo scelto tre pezzi da Big Red Letter Day del 93. È quasi l'inizio, riascoltandolo insieme a tutti i pezzi dei Lemonheads che ho in testa. Soda Jerk sembra quasi l'inizio più veloce di Into Your Arms, pezzo di qualche anno successivo dei Lemonheads. E Lucciconi con Will Not Be Denied. band formata da Bill Janowitz, Chris Colburn e Tom McGinnis, e che io ho visto dal vivo in quel club di Altedo, che non so se è lo stesso dove sono andata in Nirvana. Io studiavo ancora Urbino e l'ho trovato nella nebbia, probabilmente con la mia macchinetta 112. E adesso non ricordo il nome. Opened up my eyes, offered up my coat, opened up my mouth, not tied in my clothes. Wikipedia mi dice che dopo diversi dischi di seguito fino al 98, poi un ritorno nel 2007-2011 e un album l'anno scorso, e io colpevolmente lo scopro ora, Quiet and Peace. Ma questa invece è sempre tratta da Big Red Letter Day, Late at Night. Finisce per motivi di tempo questo piccolo mix, sempre per contestualizzare anche regionalmente, geograficamente, la scena di quegli anni. Ma è nel 92 che arriva il capolavoro. It's a Shame About Ray, tanto il track di It's a Shame About Ray. La storia è che, insomma, dopo un po' la delusione di Lovey, dando molla tutto e se ne va in Australia per scrivere un po' di canzoni con i suoi amici Nick Dalton e Tom Morgan, e sono appunto la base per It's a Shame About Ray, l'album della svolta. dove veramente il suono si definisce, perché ovviamente tu cresci, sei adolescente in una scena che è quella del punk rock, però poi dopo sei un tenerone e tira fuori anche la sua vera voce, senso fisico. Never been too good with names, but I remember faces. It's a shame about Ray. E tra tanti tagli e cuci, ad alcuni pezzi abbiamo voluto dare la dignità della completezza. Something needs to go. Insomma, già prima del 90 gli altri due soci fondatori della band non c'erano più e questo disco vede la partecipazione di Juliana Hetfield al basso e ai cori e David Ryan alla batteria, ma adesso insomma potevamo metterci altri quattro pezzi di It's a Shame About Ray. E ho fatto fatica a selezionare. Partiamo con Confetti, che ci dice pure perché significa coriandoli. The story's getting closer to the end. He kinda should've sort of would've loved her. He could've. He'd rather be alone than pretend. E poi c'è questo bellissimo pezzo che nelle prime edizioni si chiama Buddy, perché era un po' insomma sensitive scrivere My Drug Buddy, ma se si ascolta il testo. She's in the phone booth now. I'm looking in. There comes a smile on my face. There's just all the same stuff we got yesterday. Non è la stessa roba che abbiamo preso ieri. Solo ora ascolto le parole. Tom Morgan, con cui ha scritto i pezzi di questo disco, faceva parte della band australiana degli Smudge, che ritorneranno. Un disco comunque sempre ancora vario tra ballate e pezzi più movimentati, tra questa Allison Starting to Happen. Un disco che conteneva sempre, ancora una volta, delle cover, addirittura Frank Mills, un pezzo preso dal musical Hair. Abbiamo voluto dare tanto spazio che non riuscivamo a tagliarla questa. Hannah and Gabby. Out the window of a train. Easy sipping them, just seeing it fly left to right. Pour the milk and I'll say when. I'm out one. con questo album scalano le classifiche. Dedicata al modern rock, arrivando proprio ai primissimi posti, sia come singolo che come album. Il singolo di It's a Shame About Ray, ma quel singolo, ovvero quella cover che aveva anticipato, insomma, il successo più che la svolta l'hanno avuta grazie ad una cover che infatti è uscita sia come singolo, che abbiamo in CD, e sia è stata aggiunta come ultima traccia nella seconda uscita dell'album, la prima nel giugno 92, la seconda nel novembre, credo. Ma l'ascolteremo tra un po'. Perché, come dicevo, alterniamo l'ascolto di pezzi di Versions 2, uscito l'8 febbraio scorso, e di Versions. Ho cercato un significato di questa parola, l'ho trovato solo come nome in lingua, non so, indie. Forse appunto è solo una assonanza con versions. E infatti questo pezzo che ascoltiamo è tratto da questa ultima release. Si tratta di Settle Down Like Rain dei Jayhawks. E casualmente il pezzo era contenuto in un album sempre del 92 come It's a Shame About Ray, ovvero Hollywood Town Hall. La seconda voce che sento in tantissimi pezzi è quella di Marciana Jones. Poi c'è Nina Violet al basso, Lee Falco alla batteria, Chris Brokaw e il produttore del disco Matthew Cullen, che detto per inciso è un regista cinematografico. Eh sì, erano gli anni anche delle supermodel, anzi delle top model, perché il termine viene da quel gruppo di ragazze dei primi anni 90. E supermodel è il titolo di questo pezzo di Juliana Hatfield, ovvero The Juliana Hatfield 3 per essere corretti. Become what you are. A day is what they pay my baby for a pretty face. Del 93. Abbiamo detto come Juliana Hetfield abbia suonato il basso e fatto i cori in It's a Shame About Ray, ma nello stesso 92 anche lei era uscita con il suo primo album, ovvero Hey Babe, in cui a sua volta Ivan Dando aveva suonato la chitarra e aveva cantato. Questo è un altro bellissimo pezzo che abbiamo scelto, My Sister. E rimaniamo sempre nell'area geografica di riferimento. Perché anche lei è cresciuta in un sobborgo di Boston, a Duxbury. Mai smesso di pubblicare dischi senza neanche tantissimo tempo tra l'uno e l'altro, anche in questo secolo e millennio, anche grazie alla sua etichetta. The Old Records. Senza dimenticare che poi non era neanche Juliana Hetfield III, non era neanche il primo progetto, visto che veniva dalle Blake Babies, con cui aveva fatto tre album. Qui si citano i Violent Femmes, l'unico concerto che ho visto alla Royal Albert Hall di Londra, Violent Femmes. Un rapporto che quello con Ivan Dando che non si è mai interrotto, sono continuate le collaborazioni, le apparizioni negli album. Addirittura tanti show insieme tra il 2010 e il 2011. Ma eccolo il pezzone, la coverona che gli ha fatto fare la svolta. Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, la colonna sonora del Laureato, per una volta appunto un titolo italiano letteralmente tradotto, The Graduate del 67, quindi in occasione del 25ennale del film, Ivan Dando ha avuto questa grande pensata. Direi quasi una versione country punk. Hiding in a hiding place where no one ever goes. put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Ma Ivan Dando ha avuto questa idea, è stato appunto una cosa calcolata di interesse, perché lui ha dichiarato che lui odiava la canzone come odiava il suo autore, ovvero Paul Simon. E praticamente l'aveva registrata solo per promuovere l'home video appunto dei 25 anni del laureato, ma gliel'avrà chiesto qualcuno. Quindi dopo qualche mese dall'uscita della prima edizione di It's a Shame About Ray, viene aggiunto Mrs. Robinson, ma torniamo a Versions del 2009. Dicevo, grande varietà di materiale contenuto. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. There are many loved before us, I know that we are not new. In the city and in the forest, they smiled like me and you, but now it's come to distances. Both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Hey, that's no way to say goodbye. Di Leonard Cohen, tratto dall'album Songs of Leonard Cohen del 67. Steps will always run. You know my love goes with you, as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and sea. Let's L'album di debutto di Leonard Cohen. Things we can untie. Your eyes are soft and soft. Diventato una pietra miliare, perché oltre a questo pezzo conosciutissimo contiene anche Suzanne. Ma la vocina femminile che accompagna Ivan anche qui non è una... Non è una tipa qualsiasi, ma è Liv Tyler. Go home. just a perfect day. E come se questo pezzo non facesse già piangere di suo. Then later, abbiamo scelto perché è una cover, perché è cantata anche da Ivan Dando. Perfect Day, Lou Reed, Transformer 72, e la voce femminile è Kirsty MacColl. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Cantautrice inglese morta in un modo assurdo a 41 anni. Moglie del produttore Steve Lillywhite, famosa per il duetto con Sean McGowan dei Pogues, Fairy Tale of New York, ma anche per la sua cover di A New England di Billy Bragg, a cui lei aggiunse dei versi perché le sembrava troppo povera, e dal momento della sua morte Billy Bragg canta sempre la versione di Kirsty MacColl. E lei era in vacanza con i figli in Messico, stava, i figli erano in acqua, stavano nuotando, e arriva un motoscafo ad alta velocità che entra nell'area vietata alle barche, e lei, per salvare i suoi figli adolescenti, viene colpita. E tra l'altro, appunto, l'omicida era un miliardario, capitalista, proprietario di catene di supermercato messicano quasi intoccabile, e quindi ci sono state un sacco di campagne a livello internazionale per giustizia per Kirsty MacColl. Non so, magari a voi non ve ne frega niente, ma questa versione di Perfect Day è contenuta in un Greatest Hits di Kirsty MacColl del 95 dal titolo Galore. Lover, don't turn your head, just let me walk away. I thought I might have to say you're asking the wrong guy. She wonders how, thinks she knows now. E già nell'ottobre del 93 esce un altro bellissimo, forse a me più caro, di Tsushima Ray, ovvero Come On Feel, The Lemonheads, che si apriva con questa, The Great Big No. Take a look into some big gray eyes and ask yourself. E poi c'era anche Big Gay Heart, che nei primi anni 90 una canzone parlava apertamente tematica gay, non era una cosa di tutti i giorni, tra l'altro l'anno del primo Pride italiano. I don't need you to suck my dick or to help me feel good about myself. Big Gay Heart, please don't break my big gay heart, big gay heart. Please don't break my big gay heart. Un sacco di ricordi legati a questo disco. can't you look after yourself and I. È comunque l'album che ha raggiunto la più alta posizione della Billboard 200 e conteneva tanti singoli e li ascolteremo più o meno tutti in versioni più o meno intere. Disco che vedeva sempre Julian Hetfield ai cori, anche la partecipazione in un pezzo di Belinda Carlisle. Dawn Can't Decide. Perché questi passaggi così bruschi? Perché comunque se io scelgo dei pezzi li metto proprio nell'ordine di tracklist dell'album e parte del mautismo. E questa bellissima Favorite Tea. Had to hear about your Danish boyfriend, I forced to swim. Che mi pare faccia parte della scaletta che è stata postata dal Locomotive nell'evento relativo al concerto, ricordiamolo, domenica 24, The Lemonheads on stage al Locomotive. Era una scaletta di un concerto di qualche giorno fa in Germania, forse. I'll wait to see. I used to wear it every day, and now it's twice a week. Twice a week. L'amore per il country non è stato mai nascosto, tant'è vero che siamo tornati a Versions 2. C'è questo pezzo dei Florida Georgia Line, proprio country e terroni. Un pezzo recente comunque, Round Here, tratto da Here's to the Good Times del 2012. Il video di questo pezzo addirittura ha vinto il CMT Music Award, ovvero il premio dedicato alla musica country. Lui che si prepara per uscire con la sua ragazza un sabato sera, divertimenti semplici, la macchina parcheggiata in un prato, le birre, la musica alta, la notte, le stelle, perché è così che ci si diverte da queste parti. Country on the boombox, candles on the toolbox, doing everything right, got the country boy charm turned all the way on tonight, and the moon comes up and the sun goes down, find a little spot on the edge of town. Just off, sip a little, pass it around. Dance in the dust, turn the radio up. That fireball whiskey whispers. Temptation in my ear. Is the feeling alright Saturday night? That's how we do it round here. Say that's how we do it round here. And the moon comes up and the sun goes down. Find a little spot on the edge of town. Just off, sip a little, pass it around. Dance in the dust, turn the radio up. That fireball whiskey whispers temptation in my ears. Feeling alright. Saturday night. That's how we do it around here. I said that's how we do it around here. E chi conosce Come On Feel the Lemonheads dice: ma come, mancano i pezzi più importanti. E eccolo qui, un pezzo non scritto dai Van Dando, ma da Robin Sinclair, che aveva registrato questo pezzo nel 90 con i Low Positions di Nick Dalton, appunto l'amico musicista australiano di Ivan. È un inno bellissimo. E comunque, appunto, già all'inizio degli anni 90 le formazioni diventano un po' variabili. Nessuno è rimasto più di qualche anno, anche perché si stava un po' disgregando anche Ivan stesso in questi anni qua. Open the door. If I was the grass, would you mow your lawn? If I was your body, would you still wear clothes? Un altro pezzo molto country anche di Come On Feel the Lemonheads è questa bellissima Being Around, un testo veramente carino. Would you eat it? I'm just trying to give myself a reason for being around. Anche questa scritta, parole e musica, insieme a Tom Morgan. If I was a front porch swing, would you let me hang? If I was a dance floor, would you shake a thing? If I was a rubber check, would you let me bounce? Up and down inside your bank account. Would you trust me not to break you? I'm just trying really hard to make you notice me being around. E la pagina Bandcamp dei Lemonheads, dove ovviamente si pubblicizza Versions 2. Come descrizione della band. Recita: prima degli anni 90, prima di internet, prima di Nevermind, ai tempi in cui quella cosa chiamata musica indipendente cominciava a raggiungere per la prima volta un pubblico più ampio attraverso le radio dei college, il passaparola e quel piccolo negozio di dischi underground che sembrava essere in ogni città, c'era una band di Boston chiamata Lemonheads. Sorry. perché stiamo ascoltando Courtney Barnett dopo Been Around? Perché evidentemente, avendo comunque un'anima semi-australiana, anche Ivan Dando passa un sacco di tempo in Australia, avendo costruito i migliori successi con dei musicisti australiani, si vede che proprio è entrato nel cuore di un'australiana doc come Courtney Barnett, che ho trovato due video live fatti da vari siti appunto che fanno queste esibizioni live o all'aperto o questi set acustici, così per due volte ha suonato Been Around, e quando i Lemonheads hanno suonato a Melbourne nel 2014 hanno fatto questa canzone, Courtney ha raggiunto Ivan sul palco e l'hanno cantata insieme, quindi doveva entrarci per forza. E stiamo ascoltando Nameless Faceless, tratto da Tell Me How You Really Feel di Courtney Barnett del 2018, che appunto adesso sto ascoltando perché quasi unisci i puntini a distanza di 25 anni, sembra proprio l'erede musicale dei Lemonheads. Per tanti aspetti della musica che fa, i pezzi più punk, i pezzi più acustici, i pezzi più country. Tra l'altro Courtney Barnett è nata nell'87 quando hanno fatto il primo disco, i Lemonheads. Una cantante che noi amiamo molto, il debutto nel 2015, terzo disco per lei, riconoscimento unanime, è anche un disco insieme a Kurt Vile. Ma siamo tornati a Versions del 2009. E il terzo pezzo che abbiamo scelto di ascoltare da questo album di cover, quante volte avrò detto e dirò la parola cover? Every day is so wonderful, suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain, I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh no, so don't you bring me down today. Beautiful, portata al successo da Christina Aguilera con uno dei video più empowering, alla canzone appunto anche giudicata, votata, premiata come un pezzo veramente importante per tante giovani vite LGBTQY. Sappiamo che è cantata da Christina Aguilera, ma io non sapevo che l'aveva scritta Linda Perry. The peace is gone. Ovvero la cantante dei Four Non Blondes, che non solo ha scritto Beautiful, ma ha scritto What You Waiting For di Gwen Stefani, ha scritto Get the Party Started di Pink, ha creato il successo di James Blunt, ha lavorato con, ha scritto per Adele, Alicia Keys, Courtney Love, e diciamolo, lesbica, sposata. Don't you bring me down today. E che nel 2015 è stata fatta entrare, introdotta nella Songwriters Hall of Fame. Ha anche contribuito alla colonna sonora del film Freeheld, anche quella una storia lesbica, tratta da una storia vera, con una canzone cantata da Miley Cyrus. Insomma, io tutte queste cose non le sapevo, ecco. Don't you bring me down today. Ma arriviamo al 96, che dalla musica non sembrerebbe, ma Ivan Dando era messo come il culo. E credo che questo album, 1996, Car Button Cloth, sia stato fatto in stato di rehab, o forse ancora no. Perché arrivato a un certo punto, Ivan Dando ammette di avere un problema. Durante un'intervista era quasi incapace di parlare, aveva perso la voce perché aveva fumato crack cocaine. Eppure continuava a scrivere pezzi bellissimi. I never slept out underneath the stars. Dopo If I Could Talk I'd Tell You, uno dei singoli di Car Button Cloth, stiamo ascoltando The Outdoor Type. Pezzo molto amato da un nostro ascoltatore. Looking for a light until I fit the bill. God bless the great indoors. I lied about being the outdoor type. I never own a sleeping bag, let alone. Ma anche questa è una cover. È una cover di un pezzo del 93, quindi qualche anno prima, dei suoi amici Smudge australiani. Ovvero la band di Tom Morgan. Questa invece è Something's Missing. Per me Car Button Cloth del 96, molto molto bello, che invece però non aveva ottenuto un gran successo a livello commerciale. E questo è l'ultimo pezzo che abbiamo scelto. Questo è un pezzo scritto da Tom Morgan. e Adam Young, che non so se Adam Yee, sempre con lui negli Smudge, se è uno pseudonimo, ma sfuma per motivi di tempo e mi viene da ridere sentendo questo pezzo. Mi fa ridere sapendo chi l'ha fatto, vero? Battle Surfers, i surfisti del buco del culo. Mi suggeriscono che potevo mettere un altro pezzo che non citerò. Battle Surfers, prima uscito come singolo e poi nell'album Pugged. Ma appunto questo è uno dei pezzi più famosi di Battle Surfers, a sua volta una cover di un pezzo molto moltissimo famoso di Donovan Leitch, Hurdy-Gurdy Man del 68. Band formata da Gibby Haynes Pollieri, fondata nell'81 a San Antonio in Texas. Fuori di testa, pazzi, una delle copertine più brutte della storia. E perché lo ascoltiamo? Perché grande amico di Van Dando, nonché produttore del primo Versions del 2009. Quindi pezzo pubblicato come singolo nel 90, poi contenuto in Pugged del 91. Sempre titoli di dischi così, giochi di parole, tipo Hairway to Steven, cioè giochi di parole insomma, o Electric Larryland, diciamo delle parafrasi di titoli di album famosi. Insomma, negli anni, primi anni 90, credo di avere un disco almeno dei Battle Surfers. Battle Surfers, che appunto tante volte non venivano, il nome non veniva pronunciato, ma abbreviato con BS. E siamo arrivati a un pezzo, uno dei pezzi più oscuri coverati invece in Versions 2. Si tratta del gruppo di psych rock britannico di vita brevissima, 64-67, The Eyes, gli occhi. You know I wouldn't steer you wrong. Okay, now do the worst. Yeah, yeah, believe in me. You know it pays to go alone. E il titolo di questo pezzo è TAQN, che sta per Take a Quaalude Now, cioè prenditi un Quaalude adesso. Una droga, una medicina, era un farmaco, un qualcosa che però faceva effetti psicotropi e che io ho conosciuto grazie al film della mia vita, del mio coming of age a 16 anni, che mi ha fortemente influenzato, ovvero Liquid Sky. Che chi conosce il film conosce me, insomma, magari fa un po' 2 più 2. Questa versione super power pop punk. In realtà Ivan Dando non si è mai fermato, ma è solo nel 2003 che pubblica un album solista a suo nome, che sono diversi pezzi che mi ricordano i Beatles più psichedelici. Il titolo dell'album era Baby on Board, molto più cupo, molto più riflessivo, forse malinconico. Sicuramente sottovalutato, questa tripletta di pezzi che abbiamo scelto inizia con Waking Up. E poi c'è questa Hard Drive, quasi appunto una riflessione sul punto, il momento della vita fino a quel momento, quello che hai, quello che sei, dove sei. This is the girl I'm marrying. This is the chord I'm strumming now. This is the faith I'm leaning on. This is the child I'm bearing now. This is the love that I've always had. This is the face I make when I'm sad. This is the town I'm living in. This is the hard drive. This is the ocean. Have you ever felt yourself in motion? Have you ever felt yourself? Adesso, tornando sulla scheda di Van Dando, e si capisce anche un po' i suoi good looks, dove vengono? La madre è un ex fotomodella. No, modella. E l'attività come Lemonheads, mentre adesso inizia il terzo pezzo che ho scelto, Shots is Fired. L'attività come Lemonheads finisce dopo l'apparizione al Reading Festival, c'eravamo, mi sa di sì, nel 97. Questo pezzo è bellissimo. You had your way before, and where did it get you to? Waking up on the floor. In your shoes, already too much change in the reflecting pool. Whatever part of you that's been calling. Un album Baby on Board che ha nella copertina il viso della sua moglie, allora, ma credo che anche Hard Drive, sebbene l'abbia fatta propria, fosse a sua volta una cover di un attore musicista di dove? Australiano, Ben Lee. Un disco secondo me sottovalutato. I'm like a magnet. siamo tornati a Versions 2, tra l'altro appunto scelte un po' oscure. C'è questo pezzo degli NRBQ, NRBQ. Una band nata nel 66 in Stati Uniti, famosa per le sue performance live che erano molto allegre, molto spontanee, molto gaie, che mischiavano rock, pop, jazz, blues. I'm like a piece of steel, the way you break my will. E questo pezzo si chiama Magnet, dice: tu sei come una calamita, io sono un pezzo d'acciaio, come spezzi la mia volontà. Like a rowboat, you're like the Queen Mary. I play a tango, un pezzo del 72. You play a symphony when we have a problem or two. Can't you see I'm trying? When I see, ma diciamo anche qualcosa delle recensioni sulla nostra fonte metacritic.com. Non troviamo tante recensioni per Versions 2, appena 7, con una media del 7 meno meno. E una cosa incredibile, forse la vera notizia, è che per la prima volta Q Magazine, Uncut e Mojo hanno dato 3 voti diversi, 8, 7, 6. Ma appunto dicevo come Ivan Dando non si sia per niente fermato negli anni, abbia sempre continuato a fare tour, live, collaborazioni. E addirittura l'anno dopo dell'uscita del suo disco solista va a fare il cantante per gli MC5. Praticamente un po' come aveva fatto Robin Williams con i Queen, nel 2004 va in tour come cantante di MC5, un tour di 41 date. E quindi stiamo ascoltando gli MC5, ovvero Motor City, ovvero Detroit. Gruppo nato nel 64, seminale, che insomma ha ispirato tantissimi gruppi successivi. Questo pezzo stiamo ascoltando è Shaking Street, tratto da Back in the USA. L'album del 70. E poi alla fine, come i gruppi che lasciano più tracce e segno più profondo, alla fine tre album: 69, 70 e 71. Però appunto nel 2003 si rimettono insieme praticamente la formazione originale, vero, voce, chitarra, bassista e batterista, però con alla voce invece il famigerato Dick Manitoba. Perché famigerato? Perché è quello che ha fatto cambiare nome a Caribou. Quello che rompe sempre perché qualcuno si chiama come lui e lui è più famoso e più figo e soprattutto più cattivo e soprattutto ancora più brutto. Ma insomma, 2003 disco solista, 2004 tour con gli MC5, 2006 ritorna un album The Lemonheads e quando ritorni dopo un po' puoi affermare chi sei, che sei tu, che sei tornato, infatti l'album è omonimo. E appunto sembra quasi che non sia passato un giorno, no? Tanto questa è la musica che fa bene. Stiamo ascoltando, che qui c'è della geografia, Pittsburgh. E altra geografia con Poughkeepsie. Quando nel 2006 ritorna come appunto formazione fondamentale Power Trio con Carl Alvarez e Bill Stevenson. Poughkeepsie, New York, un paese che è il paese di forse di origine del uno dei due primi membri, Bill Daly, dei Lemonheads, ma soprattutto un nome conosciuto grazie a una serie TV. Vero, Ellie McBeal, quando c'era l'altro avvocato dello studio, quello un po' sfigato, che quando gli prendeva male diceva Poughkeepsie. E quindi ritorno con album omonimo per la Vagrant Records, che appunto il capo dell'etichetta ha spiegato perché ha voluto scritturare Lemonheads, perché nessuno scrive canzoni come Ivan Dando e nessuno canta come lui. E ha avuto anche, insomma, un buon voto. Oh, the towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. Sospiro. This is the time of our great undoing. This is the time that I'll come running straight to you, for I am captured. E siamo tornati a Versions 2. Si riconosce dalle prime note uno dei pezzi più famosi, più strappacore di Nick Cave and the Bad Seeds, tratto dal disco del 92 Henry's Dream. Quanti vinili di Nick Cave, anche qualche CD. And the candle that gutters on the bench. Well, now sorrow, it comes a stealing. And I'll cry, girl, but I'll come running straight to you, for I am captured. Carità, bravo, eh. Però forse un po' incauto. Gone are the days of rainbows, and gone are the nights of swinging from the stars. The sky will throw thunderbolts and sparks straight at you, but I'll come running straight to you, but I'll come running one more time. Abbiamo scelto solo qualche pezzo di Versions 2, pezzi forse un po' più famosi e un po' più invece misconosciuti, ma lo diciamo, c'è anche un pezzo dei Babies Frond, pezzo di Paul Westerberg, dei Replacements, di Lucinda Williams, un pezzo di Give Goose, un pezzo reggae che no. E un altro che ascolteremo alla fine. Dicevo, le recensioni. Molto più alto l'8 di Q Magazine, poi un 7 di All Music. Un 7 di Uncut, La Sufficienza di Mojo, altri 2-6 da riviste che testate che non conosco, di solito non compaiono in Metacritic, e invece un 3 impietoso di Under the Radar. E invece uno che continua a tenere botta è Bob Mould. E appunto uno degli ispiratori con gli Husker Du dei Lemonheads. Mitica band di St. Paul, Minnesota, con Grant Hart, Amico Nemico. Pezzo o lo scriveva uno o lo scriveva l'altro, tipo Lennon McCartney, e dopo l'87 una carriera solista anche con i Sugar, che ricordiamo con molto affetto, sempre quei primi anni 90. E questo pezzo super power. Questo pezzo è What Do You Want Me To Do, tratto da Sunshine Rock, uscito lo stesso giorno di Versions 2, ovvero lo scorso 8 febbraio. Fu appunto importante anche il suo coming out come appunto rocker della scena indie, perché adesso ha detto: sai che è? Me ne vado a Berlino, un po' come Michael Stipe, ormai questi daddy. E quindi insomma quello che era un po' all'inizio l'abbiamo voluto mettere alla fine, essendo il disco di qualche giorno fa. Trying to loosen my load, I got seven women on my mind. Four, they wanna own me. Two, they wanna stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels Ed eccolo l'ultimo pezzo, proprio l'ultimo pezzo della trasmissione, l'ultimo pezzo di chiusura di Versions 2, ovvero Take It Easy dei Eagles. Take it easy. Dell'album omonimo del 72. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say me. Questa ultima intervista che citavo all'inizio, di fine gennaio, del Boston Globe. Qui lavorava la mamma di Juliana Hetfield. Viene chiesto: perché un altro disco di cover? Dopo 10 anni fai un altro disco, fai ancora un altro disco di cover? E appunto in quell'occasione ha risposto: sì, noi abbiamo scritto già abbastanza pezzi, come se il mondo non avesse bisogno di altri pezzi dei Lemonheads. Però poi dice: no, sì, in realtà sto scrivendo delle nuove canzoni, spero di registrarle presto. E quindi fare delle cover è un po', insomma, un modo per riprendere la mano, di riprendere, insomma, dimestichezza con lo studio di registrazione. E dimestichezza con il palco invece non l'ha mai persa, perché ha continuato sempre a suonare dal vivo. Ed è sul palco del Locomotive che lo vedremo domenica 24 febbraio. Concerto il 24 febbraio Locomotive. Quando io ho postato, insomma, la notizia dell'evento, della trasmissione, chi è che mi ha fatto l'unico like al mio post? The Lemonheads, ovvero la pagina ufficiale. E quindi ciao da Claudia Mighty Mau.